A Radio Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ed eccoci qua, eccoci ritrovati sui 103 e 100 modulazione di frequenza insieme a Franco Paoletti che vi sta parlando. Io ringrazio ovviamente Riccardo Platone che ci ha fin qui intrattenuto. Saluto ovviamente il nostro Bolognese Volante che sta lì in regia e ho visto planare un aereo proprio, sì, ricominciamo con questa storia regia. Allora, buon pomeriggio a lei, il Bolognese Volante. Oggi è una bella giornata, nel senso che non piove, almeno è già qualcosa, e beh, insomma, la primavera sta per scoppiare, direi così. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio. La vedo un po' così, insomma, è contrariato, non lo so. Ma sì, non sono perché stato ci sono io. Queste interferenze astrali che mi, sì, remano contro. Così in tutto dicono. Per tutto. Così dicono, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Allora, puntata numero 12 di domenica 23 marzo 2025, ben ritrovati in questa nuova puntata che va a scandagliare la musica appunto indipendente e ovviamente per menti libere, perché si sa che appunto il mainstream da una parte mette un po' la stessa musica, noi andiamo invece con la nostra redazione alla ricerca di altri suoni, e quindi iniziamo con Eleven Joe e ci presenta questa Senza l'amore che dai. Basteranno quei ricordi per non ricascarci più, passeranno i giorni morti, quei discorsi mi buttano giù. E adesso che si fa con la felicità? Non sento le parole che vuoi. La nostra libertà che non si fermerà davanti a tutto quello che sei. Vieni qui e abbandonati così. Prenditi quello che non sarà mai senza l'amore che dai. Passo parola. La volta che sbagli poi ammetti per essere in colpa di una vita sola. Da sola, lasciati andare davanti agli errori comuni, distruggi i tuoi dubbi senza una ragione. Ragiona. E adesso che si fa? Le nostre abilità le conserviamo solo per quando vorrai. Lo sai, mi rivedrai perché ti seguirò nel buio come fanno gli eroi. Possibilità di fermare il tempo, questo è quanto, grazie a Eleven Joe, che è nato in Gravina di Puglia nel lontano 1994, ma è arrivato alla musica tardi, anche se in realtà ha sempre suonato. E quindi, che dire, che di lui insomma ha fatto un po' di teatro e poi insomma prestigiosi festival, tra l'altro è arrivato alla finale, alla a Saint Vincent. E poi che dire, che nel 2015 ha partecipato come ospite per 10 puntate alla sigla finale del programma televisivo Italian Music Talent. E poi piano piano si è così accostato anche al musical, ha partecipato a Fame Superstar, questa storia appunto intorno a Bob Dylan, e poi con il patrocinio appunto di Paolo Meneguzzi, che gli ha dato quel quid in più. E lo scorso anno il suo primo singolo, questo è il suo nuovo, che abbiamo voluto suonare con voi, per voi soprattutto. 33 180 94 94 per i vostri short message. Siamo qui, potete seguirci anche via social, se così possiamo dire, insomma, con il nostro broadcasting. E che dire, che io sono Franco Poletti e di là ovviamente il bolognese volante, la vedo sempre così impegnatissimo. E allora abbiamo ancora un bel personaggio per quanto riguarda la musica italiana, sul piatto numero 2, vero regia? È l'uno, ma è lo stesso, uguale, sono interscambiabili. Ah, siamo ok, siamo incrociati, questo giustamente è l'uno, vedo questo l'uno. È due. Sì, bene. È uguaglio. Va bene, non diciamo così. Il Torino Frassi che è uguaglio. È uguaglia. Allora, noi facciamo ascoltare la prossima selezione musicale, torna alla musica italiana Marco Ligabue, il fratello minore ovviamente di Luciano, con il suo nuovo singolo, si intitola Le canzoni inglesi. Ascoltiamo le canzoni inglesi. Facciamo che partiamo da capo, prenoto un biglietto per tornare al passato, cercherò una stanza ancora a Camden Town, ci diremo almeno un'altra volta ciao. Facciamo che non abbiamo rotto, che non te ne sei andata con il mio giubbotto, buttandomi le chiavi e gridandomi stronzo, lasciandomi senza parole in quel salotto. Ah, la vita è un diario che puoi scrivere o rileggere, non riuscirò a dimenticare che ascoltavamo le canzoni inglesi, le canzoni di Elton John. Potessimo tornare indietro veramente, con la macchina del tempo, con la metro, con un'auto sgangherata, le tue labbra che sapevano di marmellata e cioccolata. Domani festeggiamo 10 anni che non ci vediamo e ti ho portato un libro sul passato, ma ho cambiato un po' il finale, solamente per poterti rivedere. Ah, la vita è un treno in cui salire oppure scendere, non riuscirò a dimenticare che ascoltavamo le canzoni inglesi, le canzoni di Elton John, mi dicevi amore quanto resti. Ecco, adesso Paoletti ci parlerà di queste canzoni inglesi di Marco Ligabue, che sono molto curioso di sapere. Diciamo che questo brano si commenta da solo, ma appunto c'è questa nostalgia in merito, insomma, agli anni che furono. Con, esatto, e poi con questa sorta di malinconia del Britpop. Marco Ligabue è nato a Correggio, lo ricordo, il 16 maggio del 1970, è un cantautore emiliano, è già chitarrista, autore di testi insieme ai Rio, che era la sua prima band, e poi ovviamente per il fratello Luciano Ligabue, che è ben più famoso. Ma lui vanta tra l'altro il premio Lunezia per la capacità ovviamente di saper cantare con un linguaggio diretto a temi importanti della vita sociale italiana, un po' come il fratello. Lei lo sapeva che è terzino sinistro della nostra nazionale italiana cantanti? No, non lo sapeva, perché Lo dico ma lei io. Apposta per dirmi queste esattamente cose. E va bene, diciamo che questo è il suo nuovo singolo, in attesa appunto di un album e del suo nuovo tour. Se volete, Correggio una bella città, andate a visionarla, anche perché è la città anche del Correggio stesso, ma anche per esempio di Tondelli, per esempio. E quindi grande, insomma, ci sono grandi scrittori degli anni 80. Vabbè, ma andiamo avanti, perché come va bene. Tanta rovina, ecco. Come sono acculturato, bravo, vero? Bravo. E io devo spiegarle sempre tutto, non lo so. Tutto, qui apposta, per spiegarmi tutto, Paoletti. A questo punto, velocemente, abbiamo ancora il terzo brano selezionato per oggi dalla nostra redazione, che è sempre sul pezzo, lavora sempre, ascolta sempre tanta musica. Sotto traccia, lì nell'ombra, sempre lavora, ascolta, produce. Produce, fa allora delle playlist. Fino ad arrivare, insomma, la prossima selezione musicale selezionata, Sandial, si intitola così, mi aiuti, regia? Allora, qui c'è scritto Astral Deliverance. Sì, fino a Sandial. Sandial. Vabbè. Ascoltiamo. Che pezzone che è questo qua degli Astral Deliverance. Visto? Racconta un po' di loro. Che pezzone. Che bravi, vero? Gli Astral Deliverance sono un progetto progressive metal originario della scena romana. Si sono fondati nel 2016, soprattutto intorno alla voce femminile, ovvero sia quella di Giulia Pasqualini. Allora, loro presentano questa sonorità un po' progressive, un po' come dire metal, quindi un progressive metal rock alla ricerca sempre di buona musica e di nuovi suoni, tant'è vero che appunto si ispirano un po' ai Lacuna Coil oppure agli Spirits Box, però diciamo che hanno trovato il loro quadrato, il loro cerchio, non lo so, mi aiuti lei, il loro equilibrio, il loro equilibrio con questo modo di fare, con questo sonorità che è molto azzardata, è molto dark, minimal, pop, drum and bass, insomma si rifanno, però sempre dando una strizzatina d'occhio al rock metal. Quindi complimenti a loro, si sono un po' distinti rispetto a appunto Lacuna Coil, che sono molto più aggressivi e più diretti, loro invece ci arrivano piano piano e sono un po' più melodici e al sottoscritto piacciono. Bene, speriamo piacciono anche ai radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Certo, come piaceranno sicuramente la prossima selezione musicale, ritornano Bambole di Pezza con Super Love. E Super Love sia, Paoletti. Nata per bruciare come carne, tra le ciglia cenere di fiamme. Lei è bella nuda come l'arte, di più sopra un Harley. Strato bianca come Jimi Hendrix, se parla d'amore sembra Shakespeare. 2 minuti mi sembrano eterni, se qui non ci sei tu. Ora è lui su di lei, ma poi il mood non cambia. Le news nella home, pay per views, propaganda. La noia mi spegne se non sento niente, ma Conte mi prende, mi sale, non scende. Super love, super love. Un bacio a supremo, first lady sul palco. La noia mi spegne se non sento niente, ma Conte mi prende, mi sale, non scende. Super love, super love. Un bacio a top, top, top, top, amico. Sulle mie labbra come un lollipop, lucido come un sogno erotico. Dillo tu, super love. Un viaggio cop, cop, cop, cop, cosmico. Super love, super love, super love. Anche queste bambole di Pezza non scherzano, in questa puntata numero 12 di Easy Pop. Infatti è così. Allora, l'avevamo inserita anche nella nostra playlist, oltre che appunto l'ha fatto Spotify. Sono oltre 500.000 le visualizzazioni su YouTube per la cover di Rumore, quello targato alla Fella Carrà, l'avevamo suonata, e poi 1 milione di streaming per insomma altre loro selezioni musicali. E in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne hanno prescelto tanti pezzi, tra cui incluso questa Super Love che abbiamo appena ascoltato. E poi, che dire, hanno lavorato veramente con diversi personaggi importanti, tra i quali anche con J-Ax, chi l'avrebbe mai detto, e poi insomma tanti tanti altri. Le nostre go-go's, possiamo chiamarle così, queste bambole di Pezza, ancora una volta hanno fatto centro con questo Super Love che abbiamo ancora in sottofondo. A questo punto voltiamo pagina, abbiamo ancora dell'ottima musica, abbiamo il buon cantautorato italiano, più precisamente siciliano, regia. Bene, abbiamo. A proposito di Sicilia, salutiamo Riccardo che ci ha appena scritto con un SMS. Sì. Ogni domenica con Radio Città Fujiko è sempre un evento indimenticabile con Easy Pop. Ma che poeta, veramente. Che roba? È il nostro fan numero uno. Vabbè, mi piace questa cosa. Contraccambiamo. Torniamo a Palermo e alla prossima canzone, Paoletti. Ah sì, allora dicevamo, Nacci, il protagonista, un featuring con Madonia, non è Luca Madonia, ma è suo figlio. Questi, insomma, insieme cantano questo nuovo singolo appena fresco di giornata, come si può dire, si intitola È stato bello, Nacci e Madonia. Grazie per la compagnia, il tuo nome non lo so, non importa più, tornerai, la mano sulla tua, che mano non è mai, cambia forma in base a lei, a volte è una foglia e altri giorni una lama che mi taglia. Salvami dal mondo, mangia la mia polvere, portami lontano da me, brucia le mie lettere tranne quelle non mi serve più, lo sai. La vita è un po' così, hai sete ma non piove mai. Nuoteremo ancora un po', a volte mi perdo, se vuoi mi sposto. Qui allora abbiamo Brando Madonia, figlio del più noto Luca Madonia, appunto, insomma, un gruppo, faceva parte di un gruppo storico per quanto riguarda appunto la musica pop italiana, e poi Nacci, che al secolo è Vittorio Nacci. Lui è nato invece in Puglia, da adolescente aveva già militato in diverse formazioni, poi si scoccia, come sempre succede, le band si sciolgono, e allora cosa succede? Che va a studiare nella scuola di Mogol, e lì insomma si diploma come, insomma, diciamo come autore, e da lì in poi è tutto un crescendo per lui. Incontra Brando Madonia, e che dire, che insomma si trovano e danno vita a questo singolo, insomma delle, dei nascono progetti, questi sodalisti e nascono, fortunati, esatto, perché poi l'unione fa la forza, e ecco qui insomma questo nuovo singolo che ci piace molto, ed è stato bello ascoltarlo, appunto è stato bello. A questo punto voltiamo pagina e velocemente con chi andiamo? Ah, un suo beniamino Paoletti, Luca Urbani. Oh, ritorna ex Soerba anche lui, ritorna con il marchio Luca Urbani, ritorna con questo singolo, si intitola Un mondo ostile. Speriamo non sia troppo ostile, Paoletti. No, speriamo di no. Quello che immagini sia vera, e quindi hai creato un mondo ostile, ostile, ostile. Non giovanile, hai creato male senza sentire. Un mondo vecchio, non giovanile, hai pensato male senza sentire. Pensaci bene, hai sbagliato direzione, hai creato un mondo difficile. Beh, molto intenso questo brano di Luca Urbani, pensa positivo della serie, se no poi se pensi negativo ti trovi un mondo ostile. Tutto può succedere, infatti, questo è Parlo è da solo. Il caso mio di oggi. Certo, Parlo da solo nei centri commerciali, l'album appunto da quale viene estratto questo Un mondo ostile. C'è un bellissimo video che vi invito ovviamente a seguire, che dire, che ci piacciono sempre insomma queste buttate, queste sorprese. inglese, insomma, Luca Urbani, già dei Soerba, aveva il suo così a suo arco, insomma, a suo attivo un festival di Sanremo, un festival bar che fece impazzire un po', insomma, quell'anno, un po' tutti, che dire, che insomma, disciolti Soerba, lui prosegue la sua carriera con grande intelligenza, a mio avviso, un mondo ostile, questo è il nuovo singolo che abbiamo ascoltato. A questo punto velocemente andiamo con la prossima selezione musicale, vero regia? Sì, ultimo brano, il settimo di questa prima parte, di questa puntata, ma è già volata, di domenica 23 marzo 2025, lo annunci lei. Allora, Suki Waterhouse con Dream Woman. Questo brano di Suki Waterhouse, molto mistico, faccio gli auguri alla mia ex compagna di classe della famigerata Quinta E degli anni Ottanta, la Cinzia Manfa. Auguri, buon compleanno. Bene, allora tutta Fujiko si aggiunge appunto agli auguri del nostro bolognese volante, tanti auguri anche da parte nostra, e a questo punto invece parliamo un po' di Suki Waterhouse, che ha iniziato la sua carriera discografica come fotomodella in realtà, e poi piano piano si è accostata alla musica per poi insomma essere così scoperta in quel del 2020, se non sbaglio, con un primo successo e poi un tour nordamericano nel 2024, la consacra come album sicuramente più venduto per Sub Pop, che appunto ha ancora adesso un grande successo, un sold out di date. La cantautrice è certificata platino, si afferma appunto come una presenza versatile e vibrante, soprattutto per le sue ballate, per la sua, diciamo, musica molto particolare e molto così, un sound molto evocativo, e liriche molto molto intime. E quindi che dire, che sta avendo un grande grande successo soprattutto nel mondo anglosassone, ma anche in Italia cerca di così ritagliarsi il suo spazio, e quindi secondo noi insomma se lo merita tutto. Poi è anche una bella ragazza, che dire, insomma, che le ha, vince facile, ecco, diciamo così. Che ora invece diamo spazio alla pubblicità, ma non andate via, rientriamo fra pochissimo con tanta altra musica. Non andate via. Easy Pop. cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. Parcheggio gratuito. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Audio Quality, domotica, reti, audio video, luci e sistemi di controllo. Audio Quality, serietà e affidabilità per lavori certificati e precisi. Scopri tutte le nostre soluzioni nel nostro showroom a San Lazzaro di Sabena in via Vittoria 5A o visita audioquality.it. Audio Quality, punto di riferimento per il futuro della tua casa. Torna il Festival Internazionale dell'Ocarina, dal 10 al 13 aprile, con una prima nazionale insieme a Elio in Le sottilissime astuzie di Bertoldo, il 10 al Teatro Consorziale di Budrio e l'11 al Teatro Laura Betti di Casalecchio. Scopri lo straordinario mondo dell'Ocarina, con concerti, mercatini, laboratori, artisti nazionali e internazionali, e celebra con noi un'antica tradizione musicale amata in tutto il mondo. Programma dettagliato su ocarinafestival.org. Leggere è sempre una grande avventura. Libreria Ulisse, indipendenti dal 1993 a Bologna. Un grande spazio dove poter vivere eventi, mostre e incontri con gli autori. Siamo punto di riferimento per testi di enogastronomia, libri di viaggio e pubblicazioni per bambini e ragazzi. Libreria Ulisse, via degli Orti 8 e in via Albini 5E. Aperto tutti i giorni fino alle 21. Libreriaulisse.com. First time we tried to contact the fire radio, no response. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. E noi rispondiamo, come si suol dire, alla chiamata, appunto. C'è vita qui a Radio Città Fujiko, nel senso che c'è tanta musica, tanta musica da ascoltare, e tutto quello che non ascoltate appunto su altri network potete ascoltarli qui, perché noi appunto andiamo alla ricerca anche dell'alternativa, e appunto tanti personaggi che ruotano nel mondo discografico, tra i tanti quello che andiamo ad ascoltare fra pochi. Ho detto che siamo giunti nella seconda parte di Easy Pop? No, lo dico adesso, insieme a Franco Paoletti, il Bolognese Volante, seconda parte di Easy Pop. Che dire, che partiamo con Luca Rossetti e questa sua, questo suo ironico pezzo che abbiamo appunto, se non sbaglio, sul piatto numero uno. Emi Paresi, Luca Rossetti, ascoltiamolo. La vita reale non è quella che vediamo sui social media. Social media, social media, social media, social media, social media. Quello che serve è annullare per sempre la mente pensante. Quello che serve è mostrare la fuffa che piace alla gente. Non è rilevante, non è divertente, va bene di tutto se parla di niente. E se invece poi pensi di farla finita, posta il video in diretta e la festa è servita. Sceglilo tu. Sembrare o essere, sceglilo tu. Fingere o essere. Quello che serve è spacciarsi diamante pur essendo zircone, e così facendo può sembrare vincente anche il primo coglione. Fare di tutto per sentirsi importante e cercare il consenso del gregge belante. E a chi vede lo squarcio che a stento ti tiene, tu continui a dire che va tutto bene. Sceglilo tu. Sembrare o essere, sceglilo tu. Mostrare o essere, sceglilo tu. Fingere o essere, sceglilo tu. Ma peggio di un'emiparesi, per non parlare dei sermoni che ci sottoponi. Tanto alla fine più postiamo più siamo infelici, perché la rete se ne sbatte di quello che dici. I tuoi sorrisi sono peggio di un'emiparesi, per non parlare dei sermoni che ci sottoponi. Beh, interessante punto di vista sui social di Luca Rossetti, direi, eh? Assolutamente graffiante fare musica per Rossetti, un viaggio ad alta quota emotiva. E poi comporre, cantare, praticamente per lui è un gesto ironico e anche di denuncia talvolta. In effetti è proprio così. Parliamo di lui, certo, napoletano di nascita ma romano di adozione, e anche autore, cantautore e attore. Anche perché si forma presso il Lee Strasberg Institute di New York, complimenti, dove ha studiato per esempio, se non sbaglio, insomma, grandi artisti, tra i quali sono una cassa, Ma non so, cioè tra i più grandi, insomma, attori dell'ultima generazione, non solo Lee Strasberg, insomma è un nome per quanto riguarda il teatro degli anni 50-60. Comunque sia, il testo è praticamente suo, anche quello del Sanremo 2022, quando appunto Drusilla Foer insomma, abbiamo capito chi ha cantato al Festival Sanremo la sua canzone. E poi anche Moni Ovadia ha praticamente cantato delle sue canzoni, tra i quali insomma quella che sta diventando famosa per chi frequenta ovviamente diciamo gli show e soprattutto il teatro, è One Shawn Man, Mettiti scomodo, appunto. Che dire ancora? La vedo preso. No. Abbiamo tanta ciccia. Tutto a posto. Volezzi. Certo, allora dopo Luca Rossetti abbiamo i Side 74 e Humani Tube. È quella di quei cosini a cui si attaccano un po' tutte le prese USB, no? Gli UB. Ah, ok. Quindi Humani Tube. Ascoltiamo il brano. Si impara sempre qualcosa di nuovo. Sempre. In se stessi, in questa società priva di concetti, tutta filtri e vanità, ci vuole coraggio e tanta volontà, cambia come il vento ogni secondo la realtà. Giro per le strade tra mille sguardi assenti, persi dentro a schermi che crediamo innocenti, bisogno d'evasione, assurdi commenti, le nostre certezze sono castelli fatiscenti. Ci sentiamo sempre più soli, false guide, sacchi vuoti e... una star, indosso un bel cliché che ti ha personalità, divento operatore di riprese del tuo show, spendi un bel momento a qualcun altro su YouTube. Credici che è molto meglio credersi di essere qualcosa che non sei e che non sarai mai. Seguite sacchi vuoti e... Molto interessante anche questo brano, Paoletti, selezionato dalla sua famigerata redazione musicale. Un pop rock dei Side 74, Humani Tube. Io chiamerei Side 74. 74 no, allora Side 74, insomma, per semplificare, Humani Hub, come diceva lei. Nel 2021 hanno partecipato al contest Promuovi la tua musica, aggiudicandosi il primo premio come miglior inedito. Poi nel 2023 partecipano al contest Moda e Musica, aggiudicandosi nuovamente il primo posto come miglior inedito. Nel 2024 entrano in studio per registrare il brano Melodia, da presentare poi il Festival Contest Una Voce per San Marino, appunto lo scorso anno per l'Eurovision. Quest'anno invece escono con questo bel singolo che è, insomma, un pop rock onesto, molto diretto e, insomma, bello, orecchiabile, molto pop. E la prossima invece noi voltiamo pagina con Day C, Formidable o Formidabile. Se quelli che ti odiano poi ti vedessero camminare sulle acque, riderebbero dicendo che lo fai soltanto perché poi tu non sai nuotare, in fondo tu non sai nuotare. Troverai la gioia, magari troverai la gioia, forse troverai la gioia che fingevi di provare con me. Nelle frasi dirette, nelle promesse, nelle tue insicurezze, troverai la gioia. Al mondo riesce a rovinare tutte le ore. Non dar retta a chi conta i compleanni. Tu sei il numero di incontri, non di anni. Se mi alzi le onde io nuoto comunque. Scordare che tu sei. È un brano che non esito a dire metterò nella mia nella nostra compilation dance di quest'estate in agosto, Paoletti. Ah sì. Lei sì. Si è confuso probabilmente con il Formidable di Stromae di qualche anno fa che imperversava. Ma chissà se ci sarà una versione inglese di questo, anche perché Daisy l'avevamo già incontrata in passato, ritorna con questo singolo che doveva essere una canzone d'amore, in realtà è diventata questa Formidable in una versione, come dire, insomma, italiana. Mi disco piace dance. L'addition, lei ha sentito l'addition un po' spagnoleggiante, un po' spagnoleggiante, perché lei è praticamente un ispanica, sei spagnola ispanica, sì, esatto, okay. E quindi insomma un po' cede, no, ogni scambi, tanto Paoletti, la vedo. Allora lei è nata a Palma di Mallorca, da appunto anglo spagnola da padre italiano, dove appunto vive attualmente a Palma di Mallorca, ma ogni tanto viene ovviamente in Italia per la sua versione italiana. E poi tra l'altro qui sento aria di casa, lo sa? Bene, anch'io. Lo sa, lei mi deve dire, ma perché? Perché? Perché il brano è stato prodotto da Andrea Rigonat, che ha praticamente, insomma, lo studio in quel di Fiumicello a Udine, ecco, che poi invece è. E poi perché dietro c'è tutto lo staff di Elisa, lo dico piano, Elisa. Ah, ok. E quindi insomma aria di casa nostra. Possiamo andare avanti. Quindi hanno suonato veramente dei grandi, insomma, dei grandi che ovviamente girano in casa, a casa Milano. A casa Milano. Toffoli, dico così, Elisa, insomma. Milano. E quindi che dire, aria friulana. Bene, mi piace. Adesso a questo punto che abbiamo? Ah, non posso dire insomma proprio friulana, perché no, vabbè, sì, friulana, ma no, avanti. Anche Isontina o De Monfalcon, insomma, quindi sì, andiamo avanti. Abbiamo capito, no, sì. Queste cose. No, perché devo essere preciso, perché sì. Ci sono appunto qualcuno che è da quella il parte mi ascolta. Corre Paoletti. E quindi velocemente la prossima, un metro dal finale, Modena. Passo dentro l'unico passaggio libero. Cerco la mia pace e la serenità. Una birra o due e poi mi sento in debito. Verso il tuo sguardo che mi porta in là. Ti mostro i miei giorni che ho passato ad essere. A dimostrare quello che non sento più. Fammi tu sta foto che rimango immobile. Ma poi ti giuro che io non mi fermo più. Ridami indietro gli anni regalami sei figli. E portami in cima al Monte Bianco solo per baciarci. Tu sei come volare, come respirare. Quando manca un metro dal finale, allora tu sei come partire, sei come morire. Passare la mia vita al mare, nelle tue Converse bianche c'è la libertà. E tu respiri piano senza far rumore, e dentro i libri trovi la felicità. Mi raccontavi che eri l'unica a partire, cercando una persona che non troverai. Ed io l'ho trovata nelle tue parole, e resto sveglio finché non mi guarderai. Ridami indietro gli anni, regalami sei figli. Portami in cima al Monte Bianco solo per baciarci. E tu sei come volare, come respirare. Quando manca un metro da finale, allora tu sei come partire, sei come morire. Modena, un metro dal finale. Qui siamo in piena nella ritmica tipica di Easy Pop. Assolutamente sì, vi racconto questo. Modena è un cantautore noto per il suo carattere forte e deciso, un semifinalista di un famoso talent in onda su Joy TV tra Bratislava e Praga. Riesce a conquistare il suo posto, diciamo, sia in Italia che all'estero, con collaborazioni con artisti come Marco Carta, Maria Nazionale, The Colors, I Neri per Caso, Enrica Mu e poi Maldestro e tanti tanti altri. L'abbiamo visto nel 2023 in quel del MEI a Faenza. Non è tutto, perché l'abbiamo visto anche al Bravo Caffè nel 2025 aprire insomma l'open art di Morgan. Che dire, che arriva direttamente da me lo faccia dire, dalla Basilicata, e quindi dove se no la terra di Mango, e quindi insomma la terra eccetera. Esattamente, e quindi che dire, che è, insomma, onestamente si dà da fare, ha il suo successo, e noi insomma da lontano lo guardiamo con intensità. Bene, bravo, invece, bravo, bravo. Invece adesso c'è una canzone che è proposta dalla sua redazione fantomatica musicale, a me piace moltissimo. Ce la propone, ce l'annunci lei, Paoletti. Lorenz Simonetti con questa Se questo non è amore. Oh, un bel brano. Perché mi guardi non è facile, la verità a volte fa male. Forse mi inganna, forse mi inganni. Non è la prima volta che mi sento in gabbia. Se oggi piove non fare caso a me, ho un fuoco dentro che non si spegne. Facciamo i grandi, tu sei lo specchio, io la tua faccia. Ruggi, ruggi, ruggine attorno al cuore, ore e ore senza te fa male. Fanno male. Se questo non è amore, allora dimmi che cos'è. Tu che hai rubato un'anima ad uno come me. Se questo non è amore, allora dimmi che cos'è. Tu che hai rubato un'anima ad uno come me. così buio là fuori per me. Ho paura d'uscire. Sento il rumore della pioggia come fossero aerei senza una destinazione. Troppo tempo in una stanza dove il vento ormai non passa più neanche se spalanchi le finestre. E tu dove sei rimasta? Ti cerco ma non basta. Se questo non è amore, allora dimmi che cos'è. Tu che hai rubato un'anima ad uno come me. Se questo non è amore, allora dimmi che cos'è. Tu che hai rubato l'anima ad uno come me. Se mi perdo di notte, non mi importa di niente. Vagabondo per strada e anche nella mia mente. Se mi perdo di notte, non mi importa di niente. Di niente, di niente, di niente. Se questo non è amore, allora dimmi che... Oh, un bel pezzone, a me piace molto, Poletti. È un bel pezzone, sì. Sarà un inguaribile romantico. No, ma la traccia è prodotta da Fausto Cogliati, recentemente scomparso, e questa è stata la sua ultima operazione, aiutare Lorenz Simonetti ad andare al Festival di Sanremo. Non c'è riuscito, però questa è una delle selezioni presentata tra Sanremo Giovani. Che dire, che effettivamente questa è una selezione che è il che hai tutto dire, veramente fatta con i controfiocchi, come si suol dire, poi insomma con un grande autore come Fausto Cogliati, che l'ha prodotto tra l'altro fortemente voluto, insomma devo dire che per questo giovinotto insomma ha fatto centro. Del resto lui ha i suoi fans soprattutto sui social e attenzione, è uno di quelli che potrebbe sfondare da un momento all'altro. E resta il dubbio su purtroppo Cogliati ci ha lasciato, se sarà seguito appunto da un grande producer o meno, insomma vedremo come si evolverà questa carriera discografica e insomma come Lorenz riuscirà di qui in avanti insomma a proseguire la sua carriera discografica, ma abbiamo capito che ha grande tempra e quindi insomma gli facciamo un grande in bocca al lupo. Intanto questa selezione musicale la sentiremo sicuramente in lungo e largo. Complimenti a Lorenz. Cambiamo pagina, abbiamo la prossima. Kubo, I need to break free. Altro brano dance, Paoletti, che conto di mettere, di piazzare nella compilation dance di quest'anno. I need to break free. Questo entra di diritto nella prossima compilation dance di Ferragosto 2025 di Easy Pop. Fa bene, il radio è radiofonicissimo. Se siete ovviamente nostalgici della Old School House, quella magica degli anni 90, dovete proprio dovete proprio metterlo, inserirlo. Ricordava anche Robin S di Show Me Love, insomma, sì. Tutti quei grandi successi che si ballavano quando la dance impazzava, c'erano le code in autostrada appunto per andare da una discoteca all'altra, soprattutto insomma quelle più quotate, quelle più famose. Adesso non ricordo, Picchio Rosso uno dei tanti, ma poi non mi ricordo insomma. Lei vedeva City. Le code in autostrada, esatto, c'è chi vede mia, altro, certo. Lei vedeva le code in autostrada. Lei mi prende in giro e non va bene, ha le visioni non che va può. Bene, ma non va bene insomma. Siamo a questo punto in finale io andavo al TNT Kama Sutra, sì, ecco, un'altra grande va bene insomma. Buon bei viaggio. Tempi, bei tempi andanti, i giovani di oggi. Siamo in chiusura, Paoletti. Abbiamo già finito, allora. È ultimo già passata. Brano. Ultimo brano. Trattasi di un disco vintage, ma non vintage, vero? Un remake. No, questo è una cover. Make, una cover remake. Chiaramente insomma. Una cover è di un disco vintage. Va bene, una sorpresa per voi. Oh. E non orecchio all'apparecchio, non andate via, alzate il volume della vostra radiolina. Ole. He talks to me, still born by choice. It has no need to hold. Sono entrambi Paoletti. Io ritorno indietro veramente all'adolescenza o poco più con gli Ha-Ha e Stevie's Road. Rivista e corretta in questa versione da Sweet Margot, che ci ha riproposto un brano che andrebbe ripescato, anzi soprattutto tutti gli Ha-Ha andrebbero rivisti, corretti e reinvitati, perché no, al prossimo Festival di Sanremo. Io faccio un appello, perché abbiamo visto i Duran Duran, abbiamo visto tante belle reunion, non mi dispiacerebbe rivedere poi, perché no, Motten Actet e ovviamente tutti gli Ha-Ha, che tra l'altro non hanno mai smesso di fare musica, ma anzi insomma la loro storia prosegue su queste strade, come si suol dire. Un breve cenno di Sweet Margot, Paoletti? Beh, Margot è praticamente il gruppo, è una band romana attiva da molti anni per quanto riguarda appunto l'iter romano, e a cui piace fare molto cover, ma fanno anche, quando capita, insomma, un po' di jazz, un po' pop rock, e devo dire che da band di culto si stanno facendo largo nel settore indie musicale, e mi compiaccio. Okay. Detto ciò, regia. Detto ciò, ultimo saluto a Cinzia Manfe, a Cinzia Masta, che hanno compiuto gli anni, una oggi e l'altra il 19 marzo. Auguroni ancora. Allora ci aggiungiamo agli auguri. Beh, a questo punto, a tutti voi che siete sintonizzati, esatto, vi invitiamo a riascoltare appunto la puntata eventualmente sui nostri social. Ok, direi che possiamo chiudere questa puntata numero 12 di oggi, domenica. Sì, 23 domenica marzo. 23 marzo, fra un po' sarà, che dire, primavera, e a questo è già punto primavera. È già primavera, quindi che dire, bye bye da Franco Poletti, alla settimana prossima. Ok, altro da aggiungere? No, allora bye bye. Avete ascoltato il City Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da-da-da.